Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17 e 7 minuti, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia di lunedì 6 giugno. Molti i temi di oggi, parleremo naturalmente di fisco, avete sentito nel nostro giornale radio le notizie dal vertice di maggioranza che si sta ancora svolgendo, è uno dei punti qualificanti, uno dei punti sui quali si sta trattando a livello politico all'interno della maggioranza, è esattamente la riforma del fisco, è quel che più in maniera più energica richiede la Lega, e allora cercheremo di capire quali risorse si possono mettere in campo, se ci sono risorse da mettere in campo appunto per la riforma fiscale e in che direzione il governo sta pensando di muoversi. Questo nella seconda parte del programma. Nella prima parte parleremo di industria italiana. Oggi si è celebrata all'assemblea di Federlegno a Redo, un settore importantissimo per il Made in Italy e per le nostre esportazioni. Parleremo di quotazioni in borsa, perché oggi c'è stata la terza rinuncia dell'anno, la terza IPO, così si dice, quotazione in borsa dell'anno, ed era quella di Moncler, esattamente quella dei piumini, doveva quotarsi in borsa e oggi ha deciso che non si quoterà più. A questo punto, insomma, due volte è una coincidenza, tre volte fa una prova, dovremo anche qua cercare di capire quale sia il problema e per quale motivo le aziende si ritirino in tutto ciò con Prada, che come ben sapete ha deciso di andarsi a quotare ad Hong Kong. Da quel lato naturalmente entrano anche altri ragionamenti sull'importanza dei mercati asiatici, ma insomma anche quello è un segnale. Poi naturalmente parleremo di mercati, oggi vi dico subito che la giornata è negativa, il FTSE MIB cede 1,5% in questo momento, il FTSE All Share l'1,39%, mentre a New York le cose vanno lievemente meglio, il Dow Jones cede lo 0,2, il Nasdaq lo 0,21, in una giornata che è iniziata decisamente male, con un calo di Tokyo di oltre 1,5%. A pesare tantissimo è stata la vicenda di TEPCO, la società che, come sapete, gestisce gli impianti di Fukushima, quelli dove ci sono stati gli incidenti nucleari a seguito dello tsunami, e che oggi in borsa ha perso il 27%. Tutto questo nella puntata di Focus Economia. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di questa giornata. Dal lato delle materie prime troviamo un oro in rialzo a $1,545,60 l'oncia, anche se un rialzo molto lieve dello 0,3%, e un petrolio in calo, abbastanza netto in questo caso, $99,16 al barile a New York, un meno 1%. Segnali negativi arrivano dalla IATA, l'associazione internazionale che raggruppa le compagnie aeree. Il calo a 4 miliardi, c'è un ulteriore calo della stima degli utili per il 2011 a $4 miliardi, che rappresenterebbe una caduta del 54% rispetto alla stima di $8,6 miliardi fatta nel marzo scorso, e addirittura un crollo del 78% rispetto ai $18 miliardi di utile netto registrati nel 2010. Le compagnie aeree naturalmente addebitano al costo del petrolio l'elemento principale della riduzione dei profitti. Il direttore generale e amministratore delegato della IATA, Giovanni Bisignani, tra l'altro interpellato su Alitalia, dice: una compagnia di questa dimensione non sopravvive, alla strada il consolidamento con altre compagnie con le quali creare più efficienza. Allora, sempre rimanendo in zona europea, abbiamo il dato sull'Euribor di oggi che ancora aggiornato i massimi, nell'Euribor a 3 mesi. E il tasso che le banche, come sapete, applicano fra loro per i prestiti trimestrali è salito oggi a 1,438% dall'1,436% di venerdì. E poi c'è la questione greca, che naturalmente domina le cronache europee. Se il debito della Grecia viene ristrutturato, ci sarà un contagio relativamente a Irlanda e Portogallo, dice Knut Welling, membro del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Anche se un altro membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, questa volta italiano, Lorenzo Bini Smaghi, dice che una ristrutturazione è l'ultima risorsa perché potrebbe avere gravi implicazioni sul paese e sugli investitori. E chi c'è tra le banche maggiormente esposte nei confronti della Grecia? Ve lo abbiamo raccontato anche da questi microfoni e di qui vengono tutte le preoccupazioni, non tanto dalle dimensioni del paese che, come sappiamo, non sono un granché anche in rapporto a quella che è l'economia europea. Il problema sono le banche tedesche, che sono quelle più esposte al debito sovrano della Grecia, con 22,7 miliardi di dollari di titoli di Stato detenuti nel 2010. I dati sono della Banca dei Regolamenti Internazionali, dietro la Germania e la Francia, con un'esposizione bancaria al debito sovrano ellenico di 15 miliardi di dollari, ma prendendo in considerazione anche i 39,6 miliardi prestati ad aziende e famiglie greche ed altri prestiti, l'esposizione sul mercato greco degli istituti di credito francesi ammonta alla bellezza di 56 miliardi di dollari. Per quanto riguarda i singoli istituti, le banche europee che detengono la fetta più grande del debito sovrano greco, e questa volta i dati sono stati forniti da Goldman Sachs, sono BNP Paribas con 5 miliardi di euro, Dexia con 3 miliardi e mezzo, Commerzbank con 3 miliardi, SocGen con 2,7, ING con 2,4 e Deutsche Bank con 1,6. L'Italia è stabile, l'esposizione delle banche è a 4 miliardi di dollari. E veniamo all'economia italiana, iniziando dai dati forniti oggi dall'Istat nel 2010, anno nel quale il prodotto è tornato a crescere con un aumento dell'1,3%, è stato il nord-est l'area geografica più in salute con una crescita del 2,1%, e superiore alla media nazionale è stato anche l'andamento del nord-ovest, più 1,7, in linea quello del centro, più 1,2, e il sud invece, come sempre, mostra una difficoltà di recupero, la crescita di appena lo 0,2%. Abbiamo le parole dell'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne. L'impegno della Fiat in Italia è chiaro, non abbiamo cambiato idea, stiamo cercando di fare il nostro meglio. E a chi gli chiede se si possa interpretare come un'apertura la posizione della leader della CGIL, Susanna Camusso, Marchionne dice: se si tratta di risolvere problemi e andare avanti, gli obiettivi sono totalmente in linea. E poi si torna sul tema della sede di Fiat Chrysler, non è sul tavolo, non è sulla mia scrivania, dice Marchionne, tutto questo è da risolvere nel futuro, non adesso. Infine, una questione più strettamente di mercato, l'amministratore delegato della Fiat ha risposto ai giornalisti sui tempi dell'acquisizione dell'1,7% detenuto in Chrysler dal governo canadese, per il quale il lingotto ha offerto 125 milioni di dollari, dipende, ha detto, sui tempi se accetteranno l'offerta. Ultima notizia che vi diamo, che è partito il confronto fra Tirrenia e i sindacati sulla cessione della compagnia marittima all'accordata Compagnia Italiana di Navigazione. I sindacati sono stati convocati per domani pomeriggio alle 16:30 nella sede della Confcommercio, un accordo che è la precondizione insieme al via libera dell'antitrust. E veniamo al primo tema di questa giornata, parliamo di industria italiana. 349-238-6666 per i vostri sms, è il numero come sempre. Già ci state scrivendo in parecchi sul tema della mancata quotazione in borsa di tre aziende, i tre IPO o offerte pubbliche di vendita, chiamatele come volete, che sono saltate in questo inizio d'anno. Ci vedremo tra poco alle 17.45 col professor Bragantini, che ne sa parecchio. Primo tema, l'industria italiana. Si diceva l'assemblea generale di Federlegno Arredo, che si è svolta oggi a Villa San Carlo Borromeo a Senago, dove è stato confermato tra l'altro Roberto Snaidero alla presidenza, che noi salutiamo. Buonasera Snaidero. Buonasera a lei, radioascoltatori. Allora, avete fornito anche dei dati, naturalmente, sono stati rivisti al rialzo, e questa ci sembra un'ottima notizia, tutti gli indicatori di preconsuntivi elaborati a dicembre, segno evidentemente che gli ultimi mesi dell'anno scorso hanno visto una migliore performance. Sì, certo, ma quello che è molto più importante è che i primi tre mesi di quest'anno 2011 abbiamo una crescita anche in termini di esportazione con più 6%, il mercato interno ancora ne soffre, però diciamo che i segnali che abbiamo dall'esportazione sono positivi. Allora, più 6,4% l'export, in valore siamo ad 11,6 miliardi di euro, mi corregga se sbaglio qualche numero, Presidente. Bene la Francia, bene l'Inghilterra, bene gli Stati Uniti, quindi mercati abbastanza tradizionali da questo punto di vista. Certo, ma c'è anche il mercato russo che sta riprendendo molto bene, che aveva avuto delle defiance notevoli negli ultimi due anni, ma sta riprendendo, e quindi questo è un sinonimo positivo per le nostre esportazioni. Quindi guardo con positivismo al prossimo futuro. Per quanto riguarda la Cina invece, avevamo avuto qualche segnale nei mesi passati abbastanza positivo, che è un mercato che naturalmente c'è tutto l'interesse ad aggredire, lo abbiamo raccontato molte volte, è un numero di consumatori potenzialmente infinito, meglio non infinito, ma insomma comunque naturalmente un mercato enorme e che sta crescendo e che sta mostrando sempre maggiore interesse per il cosiddetto Made in Italy. Che segnali ricevete da là? Ma guardi, il mercato cinese è un mercato, come lei sottolineava, potenzialmente enorme. È chiaro che bisogna affrontarlo in maniera non superficiale, perché le problematiche che noi affrontiamo, che stiamo affrontando da anni a questa parte, le conosciamo, problemi di copia, contraffazione e quant'altro. Pronto? Sì, la sentiamo, prego. Chiedo scusa. E quindi io ritengo che noi dobbiamo affrontare come settore legno arredo il mercato cinese con la dovuta professionalità. È chiaro anche che se noi analizziamo il settore legno arredo è composto da medie e piccole imprese, e quindi la federazione attuerà tutti quei piani, quegli sviluppi e quelle strategie per affrontare il mercato, come dicevo prima, in maniera molto molto professionale. Ma noi riteniamo, prego. Che il mercato cinese ci possa dare delle grosse soddisfazioni nel prossimo futuro. Ma in termini di dati reali, che sensazione avete di mercato? Ma i dati reali, c'è la crescita, ma secondo me è una crescita molto bassa rispetto a quello che potenzialmente potrebbe dare. Allora, questo non vuol dire, Presidente, i dati che abbiamo fornito e che sono positivi, e qua andiamo anche in parallelo ai ragionamenti che abbiamo fatto anche nei giorni e nelle settimane scorse sui dati dell'Istat più generali, tutto questo non vuol dire che siamo fuori dal tunnel, insomma, nemmeno per il vostro settore, questo, così come per... Indubbiamente non siamo fuori dal tunnel, perché come dicevo prima, noi guardiamo l'esportazione che sono dei dati positivi, però abbiamo ancora delle manchevolezze sul mercato interno. Se noi vediamo i dati del mercato interno non siamo soddisfatti, attueremo delle politiche, delle strategie, stiamo studiando proprio oggi, se in questi giorni, quello che potremmo fare. Non siamo ancora fuori dal tunnel, questo è chiaro. E nemmeno dal lato dell'export, peraltro, nel senso che non abbiamo ancora recuperato i livelli pre-crisi, no? No, però siamo sulla strada di recuperare, perché se noi vediamo il meno 20% rispetto a quelli che erano i dati 2008 al 2010, qualcosa si sta facendo, però ancora non siamo ai dati 2008. Presidente, che cosa serve alle imprese di settore? Insomma, sono in questa fase, in questo stesso momento nel quale noi stiamo parlando, è in corso, e ne parleremo più avanti nel corso di questa trasmissione, è in corso, lo abbiamo detto, una riunione di maggioranza dove al centro di tutto c'è esattamente la politica economica del governo, a partire dalla riforma fiscale, naturalmente, ma non c'è solamente quello. Di che cosa hanno bisogno le imprese in generale, in particolare le imprese del vostro settore? Ma io ritengo che le imprese del nostro settore, come tutte le imprese, abbiano necessità di una tranquillità a livello politico prima, perché così si possono fare dei programmi a media e lunga scadenza. Seconda cosa, come dicevamo prima, quando si muove un'azienda francese o tedesca, arriva l'azienda francese e tedesca con il governo alle spalle. Noi, quando ci muoviamo in giro per il mondo, siamo da soli, non c'è nessuno che ci accompagna. Ecco, questo ritengo che noi abbiamo bisogno di avere a fianco nostro, non vogliamo sussidi o quant'altro, ma al fianco nostro parte governativa che ci aiuti a risolvere i problemi che incontriamo in altri paesi, vedersi dazi doganali e quant'altro in Brasile, per esempio, la lotta alla contraffazione nei suoi mercati medio orientali. Quindi sono queste cose che abbiamo bisogno, cose concrete che non costano e che ci permettono di lavorare in maniera molto più tranquilla. Dal lato vostro, infine, questa è l'ultima domanda che le faccio, Presidente, dal lato delle imprese. Lei stesso ha citato quello che è il problema anche nell'aggredire un mercato estero, soprattutto un mercato estero grande come quello cinese, è la dimensione di impresa. Questo è uno dei nostri grossi problemi, la concentrazione, la coesione tra le varie imprese, e come dicevo prima, essendo delle piccole imprese, è uno del condizio sine qua non per poter reggere contro quei grossi colossi che noi incontriamo sui mercati. È molto difficile, perché noi sappiamo che l'imprenditore italiano è pieno di se stesso, ma adesso in questo momento particolare bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare assieme, lavorare in modo tale che le aziende si mettano assieme con dei consorzi, non lo so neanche io come la forma giuridica migliore per riuscire a controbattere su questi mercati. Grazie dunque a Roberto Snaidero, presidente di Federlegno Arredo, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Si è detto, ce l'ha detto il presidente di Federlegno Arredo, che le imprese italiane hanno bisogno del supporto del governo, più che del supporto del governo, del supporto del paese in realtà, per affrontare questi nuovi mercati, ma hanno naturalmente anche bisogno del supporto delle banche, ed è di questo che parliamo ora. Giuseppe Asta ha intervistato l'amministratore delegato di BNL, gruppo BNP Paribas, Fabio Gallia, a margine del convegno Fare impresa nel mondo che cambia l'India, proprio a proposito di questo mercato. Il mercato indiano, dice, rappresenta un'eccezionale opportunità per il mondo delle imprese italiane. L'India è sicuramente un mercato fondamentale per le nostre esportazioni, innanzitutto osservando quelli che sono i numeri, innanzitutto, un mercato di oltre 1 miliardo di consumatori che crescono con una grande demografia, grande nel senso favorevole. È un paese giovane, è un paese che avrà bisogno di forti investimenti in infrastrutture, sta emergendo una nuova classe media che guiderà anche una crescita dei consumi. Quindi penso che l'India, così come altri paesi all'estero, rappresentino non soltanto più un'opzione, ma una necessità per i nostri imprenditori, sapendo che i tassi attesi per questi paesi, quindi India ma non solo, penso alla Cina, penso al Brasile, i tassi attesi di crescita saranno superiori rispetto a quello che avviene sul mercato domestico, per cui da questo punto di vista, in un'ottica anche di diversificazione, l'India rappresenta sicuramente un mercato di interesse per le nostre aziende. Anche rispetto alle altre economie emergenti, quale specificità presenta l'India in particolare? Beh, quello che le dicevo prima, nel senso che innanzitutto crescita, questa è la cosa più importante, crescita, necessità di infrastrutture, necessità di servire bisogni di una classe che sta emergendo, una classe media che sta emergendo, che comincia ad avere forti affinità in termini di modello di spesa e affinità anche di gusti, per cui da questo punto di vista molte aziende stanno già cogliendo le opportunità che ci sono, quindi guardandole in un'ottica di lungo termine. Io sottolineo sempre anche in un'ottica di diversificazione dei propri rischi, quindi c'è l'India, ma non c'è solo l'India, ci sono anche altri paesi. Riteniamo che sia un'area di sbocco su cui sia ormai imprescindibile concentrare i propri sforzi di crescita. Così Fabio Gallia, amministratore delegato di BNL Gruppo BNP Paribas. Adesso ci prendiamo una breve pausa, ritorniamo tra un attimo per parlare di mercati che stanno praticamente per chiudere e male, -1,31% sul FTSE MIB, -1,22% sul FTSE All Share. A tra poco. Le 17:33 minuti e 57 secondi è il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Core Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, ancora una volta troviamo Piazza Affari che è la peggiore d'Europa, -1,37% sul FTSE MIB, -1,22% sul FTSE All Share. Parigi perde circa la metà, -0,64%, Francoforte lo 0,25%, c'è un motivo? Sì, questo motivo si chiama banche, del resto questo succede ogni volta che il settore bancario risulta essere il peggiore e tale è in Europa. Il sottoindice delle banche ha infatti accusato una flessione dell'1,53% e ricordiamo che il listino milanese è il più ricco proprio di titoli bancari e quindi questo ha fatto sì che Milano, come hai già detto tu, abbia accusato la peggior performance. E come mai le banche sono andate giù? Ma i motivi sono sempre un po' gli stessi, si teme un rallentamento dell'economia, ricordiamo i pessimi dati americani sul mercato del lavoro annunciati venerdì scorso, ma soprattutto ovviamente ciò che fa più paura è ancora una volta la delicata situazione finanziaria della Grecia, che potrebbe andare a pesare proprio sulle banche e tra l'altro alimentare il nervosismo. Oggi ha contribuito anche un articolo del Wall Street Journal dove si fa tutto un quadro e dove alla fine si sostiene che le banche potrebbero accusare ancora delle perdite. Sì, in effetti i dati li abbiamo forniti poco fa e tra questi dati c'è quello che le banche tedesche sono esposte per 22,7 miliardi al solo debito sovrano, quelle francesi per 15 miliardi e quelle italiane per 4 miliardi. Se a questo punto vi chiedete come mai insomma Piazza Affari vada così male e Francoforte no, forse qualche ragione l'avete pure. Allora, il resto della giornata, la peggiore sul listino è stata comunque UBI per motivi che hanno parzialmente a che fare con tutto questo. Esatto, oggi UBI, ricordiamo che è partito l'aumento di capitale varato nei mesi scorsi, partito oggi e si tratta di un'operazione da 1 miliardo di euro, i nuovi titoli sono emessi a un prezzo più basso, 3,8 euro rispetto al prezzo al quale navigano le azioni di 4,6 euro, anche se ricordiamo che i nuovi titoli comunque hanno incorporati anche i diritti di opzione. Ovviamente cioè, l'aumento di capitale ha pesato sui titoli e proprio per questo UBI ha guidato i ribassi, ma anche Unicredit ha perso il 3%, Intesa San Paolo il 3%, il quadro non è che sia granché migliore. Per sì, gli altrettanto altri. La Popolare di Milano, insomma, esatto. Tutti. Sì, male anche Risparmio Gestito, -2,97% per Mediolanum, -2,72% per Azimut, Giulia Assicurativi con Fondiaria Sai che scende del 3,06% e Generali dell'1,60%. Allora, ti porterei Intanto Eleonora sui titoli in positivo, iniziando da Pirelli che guadagna un 1,70%, che in una giornata come questa non è per niente male. No, anzi, ad accendere diciamo i riflettori su Pirelli sin dalle prime battute di questa mattina, i titoli sono andati bene infatti per tutta la giornata, è stato uno studio molto favorevole di una banca d'affari francese, vale a dire Société Générale, e quindi questo ha dato in là una serie di ordini in acquisto. Ebbene, ha fatto anche Campari oggi. Campari si è spinta su nuovi massimi, sul finale ha registrato un progresso dello 0,94%, ma soprattutto il prezzo è appunto un massimo storico, 5,36 euro. Diciamo che i titoli continuano a beneficiare di uno studio uscito nei giorni scorsi e prodotto dagli analisti di Fitch, l'agenzia di rating, che fa un'analisi di tutto il settore delle società che producono alcolici e per le quali prevede un'ondata di fusioni e acquisizioni. Come sappiamo, tutte quelle che sono le operazioni straordinarie alla fine piacciono sempre a tutti i mercati, per questo appunto si è tornati a scommettere anche su Campari. Allora, vi abbiamo raccontato in apertura di trasmissione di questa giornata particolarmente negativa a Tokyo, dovuta anche al calo della TEPCO, il gestore dell'impianto di Fukushima, che è sceso al 27%, mentre insomma si parla esplicitamente della possibilità di una bancarotta. E questo ci porta a parlare invece di Enel Green Power, che è il terzo titolo migliore del listino, un più 0,73%. Ha qualche rapporto con i temi nucleari tutto questo, Eleonora? Sì, certo, anzi le azioni di Enel Green Power ormai nelle ultime sedute hanno inanellato un rialzo dietro l'altro, soprattutto hanno accelerato il passo anche dopo lo stop al nucleare da parte della Germania. Ovviamente la società opera nel settore delle energie alternative che in questo momento viene privilegiato. Le Enel Green Power sono salite dello 0,7%, ma non hanno però sostenuto le azioni della controllante Enel, che per contro ha perso il 2,2%. Allora, bene Prysmian più 0,69% e Fiat, e quando diciamo Fiat intendiamo Fiat SPA, quella delle auto, non la Industrial, ha guadagnato lo 0,68%. Sono state le notizie del weekend, no? Sì, cioè Fiat continua a beneficiare delle notizie dei giorni scorsi, ovvero che la società aumenterà la quota in Chrysler acquistando il 6% dal governo americano per 500 milioni di dollari, secondo appunto quanto è stato comunicato nei giorni scorsi. È una notizia sulla quale hanno ragionato tra l'altro anche gli analisti, piace molto al mercato, ma soprattutto numerose banche d'affari stanno rivedendo le valutazioni per il lingotto, le hanno alzate, le hanno appunto riviste al rialzo, e questo si è fatto sentire anche in borsa. Allora, tra gli altri titoli citiamo Saipem, che ha guadagnato lo 0,47%, Mediaset circa mezzo punto percentuale, Tots lo 0,27%, Parmalat è là inchiodata, Eleonora, no? 2,58 euro. Prossima al prezzo dell'OPA. Prossima al prezzo dell'OPA. Bulgari in perfetto pareggio anche qua, a 12,15 euro. Per quanto riguarda, ecco, abbiamo citato Mediaset che guadagna mezzo punto percentuale, ma c'è anche Telecom Italia Media oggi che fa una bella performance. Sì, infatti probabilmente si stanno facendo tutta una serie di ragionamenti sul quello che sarà il comparto televisivo italiano. Nel weekend in particolare il vicepresidente amministratore delegato di Telecom Italia Media ha rilasciato un'intervista al Fatto nel quale ipotizza, anzi nel quale mette proprio nero su bianco, che nei prossimi mesi avverrà una variazione nell'azionariato. Adesso Telecom Italia Media è controllata da Telecom Italia e lui sostiene che cambierà azionista di riferimento, entrerà un nuovo azionista con il 40%. Nelle scorse settimane ricordiamo che erano già circolate varie ipotesi che soprattutto puntavano l'indice su De Benedetti, interessato alla rete La 7. Poi indiscrezioni di stampa sempre di oggi indicano che probabilmente anche Santoro pare che non sia nel palinsesto Rai, che viene deciso dal consiglio di amministrazione di quest'oggi della Rai. Insomma, tutti elementi che fanno ipotizzare che la rete La 7 potrebbe finire appunto potrebbe essere rilevata probabilmente solo la SET, o forse potrebbe entrare, appunto, come ha detto Stella, un azionista in Telecom Italia Media, De Benedetti, e soprattutto potrebbe crearsi un nuovo polo televisivo nel quale si sostiene che potrebbero confluire Santoro, ma anche altri volti noti della TV. Allora, questo è il quadro al fronte televisivo. Altri titoli minori da segnalare? Titoli minori da segnalare, va segnalato che Zucchi oggi si è sgonfiata, meno 19%, del resto aveva corso molto nelle ultime sedute dopo la notizia dell'ingresso di Buffon nel consiglio di amministrazione. Comunque, dopo domani, mercoledì, ci sarà una conferenza stampa proprio di Buffon e di Matteo Zucchi, l'amministratore delegato, per indicare le strategie dell'azienda. E poi, sempre tra i titoli minori, invece, si sono sgonfiate le Tiscali, meno 6,28%. Venerdì scorso, in descrizioni di stampa, le avevano messe in luce sull'ipotesi che Tiscali potesse essere nel mirino di Wind, che ricordiamo a sua volta è controllata da una società russa. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cuore Sole 24 Ore e oggi ad Eleonora Micheli. Buonasera, Eleonora. Buonasera. E veniamo ad un tema strettamente connesso a quello dei mercati, qual è? Quello delle quotazioni in borsa. Si dice spesso, insomma, lo sentiamo dire spesso, che le aziende italiane sono poco attratte dal mercato, dietro ci sono una serie di motivi. Una serie di vantaggi che intravedono nel rimanere fuori dalla borsa. Ebbene, oggi Moncler, esattamente quella dei piumini, ma non solo di quelli, dopo aver ricevuto l'ok di Borsa e Consob alla quotazione, ha deciso di sospendere il processo che l'avrebbe portata a Piazza Affari. È la terza azienda che lo fa quest'anno ed è questo il punto. Lo ha fatto Philogen, che è attiva nell'area delle biotecnologie, che si sarebbe dovuta quotare tra febbraio e marzo e si è ritirata l'11 febbraio. Lo ha fatto Riag, che invece è un'azienda di componentistica auto, che è saltata il 26 maggio, parlando di avverse condizioni sui mercati finanziari. Per quanto riguarda Philogen, invece, ci sono più strette connessioni con temi industriali dell'azienda. E cosa ha fatto? Moncler ha raggiunto un accordo con Euraseo, società di investimento francese, per l'ingresso di quest'ultima nel capitale con il 45%, acquistato per 418 milioni. Per il momento, tra le IPO o offerte pubbliche di vendita previste, rimane Ferragamo, al via la quotazione a fine giugno, vedremo che cosa succederà. E poi c'è Prada, che però ha scelto un'altra borsa. Anche qua probabilmente ci sono anche ragioni industriali, si vuole guardare ad est, dovrebbe sbarcare in borsa ad Hong Kong. E quindi comunque non ha scelto la borsa italiana. Di tutto questo parleremo tra un attimo, subito dopo la viabilità. E dunque parliamo di quotazioni in borsa, alle 17:48 minuti e 24 secondi, si parla di avverse condizioni del mercato. Saluto Salvatore Bragantini, che è ex commissario Consob, ex presidente di Promac, la società che gestiva il listino per le piccole imprese, e oggi consulente di Borsa Italiana per la quotazione delle medie imprese. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, che cosa sta succedendo? Io le dico subito che la mia impressione è che questa questione delle avverse condizioni di mercato sia un po' una foglia di fico, perché alla fine quelle che si sono ritirate sono aziende assai solide e poi le condizioni non è che siano particolarmente avverse, insomma non sono straordinarie, però non proprio avverse, no? Non credo che si tratti tanto di questo quanto del fatto che, per quanto riguarda in particolare Moncler, se ho capito bene, è stata preferita da parte dei venditori, che sono il fondo Carlyle e altri, l'offerta di un altro fondo di investimento che ha offerto più soldi di quelli che sarebbero stati disposti ad offrire investitori rappresentati dalle banche che hanno, diciamo, partecipato alla tentata quotazione. Sì. Sì, l'accordo valorizza la società al cosiddetto enterprise value di 1,2 miliardi di euro, che sono 12 volte il margine operativo lordo. E però, professore, ci viene da dire che due fatti, ossia il ritiro di Filogen e di Riag, sono una coincidenza. Tre fatti iniziano ad essere una prova. C'è un po' di il classico problema, è tanto tempo che ne discutiamo, tra l'altro, un po' di difficoltà ad attrarre le quotazioni da parte della borsa italiana. Guardi, credo che il problema sia, diciamo, un problema generale del paese, nel quale, diciamo, la quotazione non è particolarmente, diciamo, amata da molte medie imprese, ma il caso di Filogen è un caso diverso, perché per quello che ricordo c'era un importante contributore alla ricerca, la Bayer, che all'ultimamente ha staccato la spina, quindi quello è un caso molto particolare. Riag, credo che semplicemente il venditore abbia trovato il prezzo basso, qui è spuntato un compratore a un prezzo più alto, se vogliamo si assomigliano di più, sì. Riag e, sì. E Moncler. Il caso Filogen mi sembra un caso completamente diverso. Sì, una questione industriale, lo accennavamo già prima, insomma, sì, una questione più puramente industriale. Però vorrei coinvolgerla comunque, professore, sulla questione in generale, perché, insomma, no, la sensazione che un problema ci sia, cioè, lo ha sottolineato del resto lo stesso neopresidente della Consob Vegas nella sua prima relazione annuale, e non è il primo che lo sottolinea, tra l'altro. Diciamo che c'è una tendenza dei mercati alle grandi operazioni, e le operazioni non piccole, perché Moncler certo non sarebbe stata piccola, avendo una capitalizzazione intorno al miliardo, però, diciamo, attraggono meno attenzione degli operatori. Probabilmente, forse anche, non so, forse anche l'imminente arrivo di Prada può avere, diciamo, contribuito a orientare diversamente le richieste degli investitori. Non conosco naturalmente la questione in dettaglio, se la conoscessi non ne potrei parlare liberamente, però credo che la questione sia legata al lavoro fatto dalle banche collocatrici e allo scarso interesse per quel prezzo degli investitori. D'altronde, sa, il venditore deve cercare naturalmente di realizzare il massimo prezzo. Quello che a me sembra diciamo interessante di questa operazione è che mi sembra che si ritorni un pochino a certe follie di prezzi, perché adesso questo margine operativo valutato 12 volte non è veramente cosa da poco. Poi voglio vedere come il fondo finanzierà questo acquisto, perché le stesse banche che probabilmente hanno rifiutato di acquistare le azioni magari domani finanzieranno il leverage a 7-8 volte il margine operativo. Sì, certamente, insomma, questo lo vedremo, perché dettagli, insomma, così specifici dell'operazione poi non sono arrivati. Ecco, io vorrei riportarla anche a quello che lei stesso diceva, ossia il tema di questa sorta di avversione da parte delle piccole e medie imprese, le medie imprese in particolare, perché di quelle che parliamo, verso la borsa. Da cosa dipende e quali possono essere le soluzioni? Questo è un problema, diciamo, che affligge il nostro paese da molto tempo. Le ragioni sono tante. Una ragione è certamente il timore del condizionamento che gli investitori esterni possono dare in cambio dei soldi che danno all'azienda. Io credo che questo sia un ragionamento sbagliato, sinceramente, ma la testa delle persone è quella che è, molto spesso gente che ha rifiutato la quotazione alla lunga ha avuto ragione, altri in altri casi hanno mostrato che invece un po' più di coraggio sarebbe stato premiato. Poi c'è la ragione fiscale, non dobbiamo dimenticare che naturalmente quotarsi vuol dire aprire i conti non solo agli altri investitori, ma anche in maniera forse superiore a quello che accade per la media delle imprese italiane al fisco. Eppure questo è un passaggio ineludibile per un paese che vuole essere sviluppato. Ci chiedono via SMS gli ascoltatori, ci dicono quotazione in borsa, le chiedo di essere breve professore perché siamo quasi in chiusura, dice significa lauti dividendi per persone abbienti, elevate stock option per i dipendenti spesso incapaci, oltre che riduzione di personale, esternalizzazione e delocalizzazioni. Ora, con tutto che il messaggio naturalmente ha la verve tipica che si può dare ad un SMS, quindi chiaramente con questo tipo di energia, qualcosa da questo lato forse si può dire, insomma. Ma che il mercato costringe ad una trasparenza, ad un lavoro sui conti molto più stretto, no? Sì, questo è vero, però c'ha anche ha i suoi bei vantaggi, perché le persone che danno dei soldi poi aiutano l'azienda a crescere, dandole diciamo un'assistenza e una capacità di valutare quello che sta succedendo. Le delocalizzazioni non le fanno solo le società quotate, le fanno tutti. Poi che ci siano stati certi eccessi nelle stock option è vero, ma mi sembra che le cause di questi eccessi siano state rimosse. Per esempio il trattamento fiscale ormai mi sembra del tutto non vantaggioso. Grazie, grazie a Salvatore Bragantini, ex commissario Consob, adesso oggi consulente di Borsa Italiana per la quotazione delle medie imprese. E noi, come sentite dalla musica che è già entrata in sottofondo, chiudiamo questa prima parte di Focus Economia. Ci risentiamo tra poco e parleremo di riforma fiscale, il grande tema politico di queste ore. Le 18, 8 minuti e 38 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Il numero per intervenire in diretta via SMS, come sempre, il 349-238-6666, e parliamo adesso di riforma fiscale. Come vi ha raccontato anche il nostro giornale radio, è stata proprio questa al centro della riunione di maggioranza di oggi, quella che appunto, come abbiamo raccontato nel GR, ha raccontato di questo rapporto fra Lega e PDL che il segretario designato del Popolo della Libertà Angelino Alfano definisce solido. Al centro di tutto questo ci sono le questioni economiche, a partire dalla riforma del fisco, molto voluta e molto spinta tanto dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi quanto naturalmente dalla Lega. Lo stesso Presidente del Consiglio aveva detto che la riforma fiscale sarebbe stata al primo punto dell'agenda politica. All'ombra di tutto questo è stato raccontato ampiamente anche dai giornali quello che si presume essere una sorta di scontro tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, perché c'è un problema e il problema naturalmente è sempre quello: le coperture. Tra l'altro, nel vertice fra PDL e Lega è stato confermato, ha detto ancora Alfano, l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2014. A parlare anche la Presidente degli Industriali, Emma Marcegaglia, dice: crediamo che la riforma fiscale sia molto importante, si devono abbassare le tasse prima sui lavoratori e poi sulle imprese, che sono i pilastri del Paese. È venuto il momento di fare le cose concretamente, aggiunge Marcegaglia, e non fermarsi agli annunci. È proprio di come fare le cose concretamente che parliamo adesso, e saluto Dino Pesore del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera Simone. Buonasera. Allora, alla fin fine ci ritroviamo sempre sullo stesso tema, il tema delle coperture, perché bisogna dare una spinta alla crescita, lo si vuole fare anche con la riforma fiscale, che in realtà, lo abbiamo raccontato spesso anche da questi microfoni, è qualcosa di molto più complesso, che tiene dentro da una parte evidentemente una revisione delle aliquote, uno spostamento del peso fiscale da una parte all'altra, dalle persone alle cose, come si diceva nel famoso libro bianco voluto da Giulio Tremonti qualche anno fa, e dall'altra parte però si parla anche di semplificazione, cioè di rimettere mano ad un sistema fiscale che ha inizia ad avere una certa età, che si è andato sedimentando nel tempo, che in certi casi è farraginoso. Però alla base di tutto questo c'è il nodo delle risorse. Allora ti chiedo innanzitutto di aiutarci a capire come intende muoversi il governo dal lato dei provvedimenti, cioè se c'è una qualche idea di provvedimenti immediati che si possono varare, e poi andiamo alle coperture. Dino. Bisogna un po' intendersi su che cosa è riforma fiscale, perché è ovvio e evidente che c'è sia nell'intenzione del Presidente del Consiglio, dopo i risultati dei ballottaggi a Milano e Napoli, ma anche lo stesso Ministro dell'Economia Tremonti, entrambi sono d'accordo sul fatto che occorra mettere mano a una riforma, e il problema è capire quale riforma. È ovvio che una riforma vera, che non sia propaganda, presuppone un impegno economico, perché per fare una riforma del fisco vera bisogna abbassare le aliquote. Per abbassare le aliquote occorre trovare le risorse. Noi abbiamo una pressione fiscale che è al 43,3% del PIL, una delle più alte in Europa, e siamo costretti ad averla perché abbiamo un debito pubblico al 120% del PIL. Con questi vincoli, dovendo noi fare una manovra di aggiustamento per raggiungere il pareggio di bilancio, che è di 40 miliardi nel biennio 2013-2014, è del tutto evidente che non ci sono margini per fare un'operazione del genere. Allora, eliminato dal campo, sgombrato il campo dalla possibilità che si possa fare una riforma che abbassi il peso fiscale, si possono fare molte altre cose, ed è per questo che il governo sta lavorando a un'accelerazione della presentazione di una delega, un disegno di legge delega, che potrebbe anche arrivare nel mese di giugno, in cui ci saranno delle cose. Ovviamente poi, come tutte le leggi delega, andranno approvate, ci saranno i decreti legislativi, ci sarà un tempo di approvazione, e lì dentro ci saranno delle cose da fare. Allora, su queste cose da fare, io ti fermo, adesso ci sentiamo la viabilità, come vanno le cose su strade e autostrade, e poi vorrei entrare nel merito e cercare di capire che cosa si sta ipotizzando dalle parti di via 20 Settembre, sede del Ministero dell'Economia, la viabilità. Le 18:16 minuti e 30 secondi, iniziano ad arrivare consigli al governo, dimezzare i dipendenti pubblici, altri dicono tagliare i costi della pubblica amministrazione, altri ancora dicono spendo 1.600 euro per il commercialista, preferisco darli allo Stato e avere norme più semplici, poi ci chiedete di spiegare che cos'è la perdita secca di tassazione. Penso, Dino, che intendessi il fatto che non puoi tagliare le tasse tu curi in un paese con un debito pubblico come questo, ma devi pensare anche alla copertura. In cantiere dunque cosa c'è? Dunque in cantiere, come diciamo poc'anzi, c'è sicuramente questo disegno di legge delega che comporterà un primo spostamento del prelievo. Questo si può fare sostanzialmente a invarianza di gettito dalle imposte indirette dalle imposte dirette a quelle indirette, vale a dire si agirà con ogni probabilità sull'IVA. Una delle ipotesi è quella di incrementare l'aliquota ordinaria, che sta al 20%, e di portarla al 21%. Un'altra ipotesi è addirittura quella di uniformare le aliquote, così come ci chiede l'Europa, e portare anche al 20% la tassazione delle rendite finanziarie. Quindi comunque si farà un intervento sull'imposizione indiretta. Quello che si ricava non lo si sa ancora, perché dipende da come si articolerà la manovra. Quello che si ricava potrebbe essere utilizzato per avviare una prima riduzione del carico fiscale sul lavoro e quindi sui redditi medio-bassi. Questa potrebbe essere una prima operazione che non è obiettivamente indolore, perché toccare l'IVA non è una cosa semplice. Sappiamo che l'IVA è un'imposta importante, colpisce i consumi, colpisce gli affari, e il rischio che ci possa essere una, ad esempio un pericolo di inflazione, ma anche una risposta negativa dell'economia in una fase in cui l'economia stenta a riprendersi, esiste. Quindi perché, giustamente tra l'altro ci scrivono gli ascoltatori, insomma, spostandolo così rischi di dare una mazzata ai consumi. Esatto, il punto è quello, i consumi nel nostro paese sono molto, ancora molto, molto bassi, cioè non c'è una spinta a consumare, a investire, anche perché siamo probabilmente nella coda finale di una grande crisi e dunque non si consuma ancora, probabilmente la gente preferisce aspettare, anche le imprese sono in una fase di sostanziale attesa. Comunque il disegno del governo è sostanzialmente questo, tenendo conto che è una legge delega e quindi conterrà dei principi, le leggi delega non sono immediatamente operative. E poi vedremo dei decreti delegati e quando arriveranno. Dino, ma di spesa pubblica, perché poi è questo anche quello che ci chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666, non se ne parla più? Insomma, abbiamo sentito il governatore della Banca d'Italia una settimana fa fare un ragionamento sui tagli alla spesa pubblica, ripartendo magari da un altro libro bianco, quello di Tommaso Padoa-Schioppa sulla spesa pubblica, e andando a tagliare quelli che sono i veri rami secchi, che insomma forse consentirebbe un lavoro anche dal lato fiscale, no? Sì, certamente se ne riparlerà sicuramente di spesa pubblica, perché la manovra a cui facevo accenno, che sarà di circa 5 miliardi di manutenzione sull'anno in corso e tutto il resto per arrivare a 40 nel biennio successivo, sarà interamente concentrata sulla spesa. Ed è secondo me improbabile, oltre che improponibile, che il ministro Tremonti si ripresenti con i tagli lineari, che obiettivamente capisco possono essere l'unica soluzione quando si ha un paese in cui se colpisci qualcuno magari scateni la protesta di questa o quella lobby, allora è meglio colpire tutti, però poi ci si è resi conto, lo dicono tutti, lo dice Draghi, la Corte dei Conti, che fare tagli indifferenziati su tutti i settori non funziona. Allora, la spending review, così si chiama quella tecnica a cui tu facevi prima riferimento, è sicuramente importante, perché è un'analisi selettiva della spesa in cui si dica andiamo a tagliare dove ci sono eccessi di spesa. Il problema però, come rilevava lo stesso rapporto di 3 anni fa che il professor Murara aveva consegnato al ministro Tremonti, non è che con quello ci puoi fare una manovra di questa entità. Sicuramente è un primo passo per fare manovre selettive, però poi per recuperare cifre di questo valore occorrerà fare manovre probabilmente più consistenti, e dunque si torna a parlare ad esempio di una manovra sulle pensioni e forse anche sugli statali, e dobbiamo vedere un po' come finirà. Sì, anche perché i tempi dell'azione dopo aver fatto la spending review, allora innanzitutto bisogna fare la spending review e poi i tempi di azione da questo punto di vista non sono né brevi né naturalmente indolori, perché a prescindere da tutto, insomma, qualche tensione inevitabilmente la portano, no? Proprio per quei motivi che ci dicevi poco fa. Grazie dunque a Dino Pesole del Sole 24 Ore per averci aiutato anche oggi a capire come si sta muovendo l'esecutivo e che cosa ci si può aspettare per i prossimi mesi. Vedremo che cosa succederà. Grazie Dino e buonasera. Buonasera, grazie. Allora, sul progetto di rimodulazione della pressione fiscale dai redditi di lavoro ai consumi, Paolo Piacenza ha intervistato Giorgio Guerrini, presidente di Rete Imprese Italia, che è l'associazione nata dall'Unione di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casa Artigiani e CNA. I miracoli non si fanno con la bacchetta magica, nel senso che vi è una situazione economico-finanziaria nel nostro paese che non consente grandissime manovre. Tante gli obblighi del patto di stabilità a cui l'Italia deve far fronte. Noi diciamo che si possono operare tantissime recuperi di fiscalità e recuperi di sprechi che dovrebbero consentire di riequilibrare un fisco che è troppo squilibrato nei confronti di chi svolge un'attività economica e che produce economia e posti di lavoro, e meno pesante soprattutto sul fronte delle rendite finanziarie e speculative. Si parla molto dell'eventualità di un leggero ritocco delle aliquote IVA. È una cosa che secondo voi è accettabile se fosse riequilibrata dalla riduzione delle imposte sulle imprese? Con una economia di consumi interni così stagnanti ormai da anni, con prospettive a breve di ripresa molto limitata, andare a ritoccare in rialzo le aliquote IVA sarebbe una delle cose più sbagliate da fare. Quindi abbiamo detto fin dall'inizio che il fronte non è quello, il fronte è una riduzione di pressione fiscale su chi lavora e un aumento di pressione fiscale sulle rendite speculative finanziarie. Di aumenti d'IVA credo che in un momento come questo non ci sia bisogno, perché il segnale che daremo al mercato sarebbe, noi crediamo, molto negativo. È una operazione che potrebbe prevedere anche, a suo avviso, un'accettabile tassa patrimoniale, oppure magari minima, oppure no? Ma se di tassa patrimoniale si può parlare, io non la chiamerei una tassa patrimoniale sulle rendite patrimoniali, quelle normali, quelle che hanno i cittadini italiani acquistando qualche bot o qualche altro strumento finanziario. Ecco, quindi anche questa per noi non è una iniziativa positiva. Io parlerei più che di tassa patrimoniale di incremento della pressione fiscale sulle rendite elevate e sulle rendite speculative. Ecco, un altro canale da cui si spera una compensazione per un'eventuale riduzione fiscale è quello ovviamente della lotta all'evasione, che è anche però un canale che ha un costo in termini di popolarità per il governo. Ma che ci sia necessità in un paese come il nostro, che ha un sommerso così elevato, di intensificare il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, credo che non ci sia nessuno che possa dire il contrario. Noi però sosteniamo che in un rapporto positivo tra contribuente e fisco, gli eccessi a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi di accanimento nei confronti di chi deve delle somme e se sgarra un giorno è perseguito con una ferocia pazzesca, mentre sappiamo tutti quanto lo Stato sia cattivo pagatore e paga le imprese che gli svolgono i servizi a volte anche con un anno o due anni di ritardo. Ecco, a noi ci sembra che questo sia molto sbagliato, però dato che nelle ultime finanziarie il recupero di reddito è stato appostato con cifre importanti sulla lotta e sul contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, io credo che difficilmente ci potranno essere governi che non possono andare su questa strada. L'ultimo punto di cui si parla in particolare anche sul Sole 24 Ore di oggi, il Sole 24 Ore del lunedì, è il nodo della revisione dei bonus fiscali. A suo avviso si può andare in questa direzione? Io credo che il monitoraggio che è stato fatto rileva, ma lo sapevamo già, che vi è una giungla inestricata di alcuni settori che hanno dei privilegi, credo, insopportabili. Andare a ridisegnare questa giungla, questa foresta inestricabile, credo che sia necessario, e da lì potremmo trovare delle risorse che possono essere ricavate per riequilibrare il fisco. Così dunque Giorgio Guerrini, presidente di Rete Impresa Italia, intervistato da Paolo Piacenza. Molte le proposte che arrivano: chi dice alziamo l'IVA sui prodotti di lusso, le auto oltre i 2.000, le barche, i viaggi oltre i 5.000 euro, chi dice rendiamo detraibili le spese come negli Stati Uniti, così di fatto azzeriamo l'evasione, e ancora eliminare le province e i piccoli comuni. Queste le vostre opinioni via SMS, ed è così che chiudiamo questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, buona serata. Radio 24, la passione si sente.